Come sono messa a strada non mi ha collegato. arriva. Ma che carina, eh? Sì, già lo sa lì. Già lo sa, dice che sta vero per le commesse. Ecco. Avanti, buonasera. che vi saluta. Come va? Carcere, bene, bene, da parte mia bene. Sono rilassato, sdraiato nel letto e sto parlando adesso in questo momento. Stavo raccontando barzellette, se vuoi fare parte della nostra combricco avanti pure. Ciao Teresa, ciao zia Teresa. Buonasera. Avanti Manuela. Ciao zia Teresa, buonasera. Avanti Maria Luisa. Oh, ragazzi. Niente, no, mi ero un attimo inattentata, sono da filo, se no mi sono tutto. Niente, ho acceso adesso, vi sentito e sono stata così a salutarvi. Sto sfidando. Allora, avviati. Ma perché non mi vuoi? Stai sfidando, ma ti fai, scusa. Comunque luce per niente, luce per niente. Se non vado errando, c'è Pomponio. Avanti Pomponio. Io già sto bene, come stai tu Ale? Oh, e perché? Pompo. Sì, da me, chi è questo? Non le negre, oh mamma mia, quelle fanno paura, non ti andare con quelle tu, mio figlio mio. Vai da quello, me lo so che me l'hai accompagnato. Io gli ho già ti vuoi bene. Cosa sta falcone? Aria lui, lui da marito. Ah, boh. Vada Ulisso, dove c'è da fumare, boh? Sempre Gumendia, sempre Gumendia. Sta storia, vostra storia. Comunque, sono Gianni. Come è più forte da Pirino che per le barzellette? Ah, Pirino? Oh, sì, mio amico Pirino, mi siamo meglio registrati tutti e sono di Pirino, lo sai. Cavolo, ma c'è un barzelletto da un mostro, l'ho visto veramente. Come io non faccio troppo ridere con la farina di Natale, le cose della farina di Natale, l'hai sentito? La farina di Natale, no? Allora, la maestra praticamente ha detto, descrivetemi un frutto che sia ricoperto di penuria per difendersi dai parassiti. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, Claudio. Buonasera Claudio. Guarda, c'è anche Teresa. E quelli che eravamo qui, guarda, avanti. Ciao Teresa, buonasera. E noi c'è? E sta tirando qua. Già lo sa. La camicia ti sta tirando, infatti vedo. Ma tu domani lavori o finisci? Domani lavoro. Da dopo domani dovrei essere in ferie. Fino alla prossima settimana. Vai, io c'ho 3 giorni, sto fare qualcosa. Questa è stata tramontana, sì già, sicuramente sì, abbiamo 3 giorni per poter fare qualcosa. E io sono, e voi gli avete di più. Vabbè, comunque già va bene, almeno una giornata si può dedicare, no? Sì, dobbiamo andare a farci un po' di calamari per Natale, capito, non c'ho soldi io per comprarmi, costano troppo. Quindi dopo se li prendi lì sono freschi, saranno calamari diesel. Sì, vabbè, meglio diesel che a benzina. A me lo consumo di me. Allora, ok, chi c'è sempre qui? C'è Manuela, ciao Manuela, Maria Luisa, Teresa sta stirando, ciao Franco, buonasera. Luca è tutto il giorno che ti saluto, Gianni di nuovo saluti, allora avanti Manuela. Gianni. Dimmi Manuela. Perché guardare in televisione? Niente, perché sono sdraiato in camera, capito? Non lo sto guardando. Forse sono guardando i miei figli. Sì, si sente una musica. Musica qua? No, assolutamente no, non c'è né musica. Senti già, televisione parlare, ha ragione Manuela. Finalmente ti sento. Brutto buco. Ma noi eravamo a letto, eravamo, capito? Dovevo recuperare un po' di sonno. Questa mattina ero assieme a Batti la Viacca. Sinuso, sempre facendo male, sai tu. Va bene, va bene. Vabbè, ero gratta gratta, ma ne è andato. Ma loro non mi danno in manco. Oh Gianni. Senti questa. L'anno scorso nel cellulare, l'altro numero. Allora, un cinese in vacanza in Italia chiede a un passante: scusi, e qui è Emilia Romagna? E lui risponde: guardi, non so se qui è Emilia Romagna, ma all'angolo laggiù, ma io lo ciuccia. Ma era lui che un centinaio. No, sento che sta una bugia mia. Comunque ne avevo un bel, me ne mandavo alla continente, mamma mia, sì. Amici di chat, un bel me ne mandavano. Prendiamo un'altra, questa, va bene. Che cacciate, Gianluca? Yeah. Tu metti al video. Ah, no, con computer. No, negativo, col cellulare. Questa blu è l'altra. No, questa ho cancellata. Andiamo nel mezzo al libro. Emilia Romagna, così è. È un cinese, Emilia Romagna. Non c'è Emilia, Emilia Romagna. Perché i cinesi parlano così, bella, io molto bene, comunque. Piacere un sacco di barzellette. C'era quel programma delle barzellette, non lo date in bio a CP, che volevo fare qualcosa di bello. A farti due risate nel buco è un programma, capito? Scrivi per vedere a Maurizio Costanzo e a Maria Filippa. Senti questa qua che è un po' lo stesso, ma non molto, dai. Allora, una dice: mia zia è morta, ha donato cuore, occhi e reni e ha fatto felici 5 persone. L'altra risponde: mia zia, mia sorella è viva, dà il culo e fa felici un sacco di persone. Per ragione, per carità. Comunque io c'ho un sito, ma sta lì dentro che mi mandano le barzellette al computer ogni giorno. Avanti. Tra barzellette sono, dai. Mi hanno mandato un bel, guarda, quelle che c'erano con prima erano spettacolo. O se ne inventavano, proprio barzellette fuori di testa. Dice, me le mandano già, me le mando. Dice, ho il numero, lo mando a Teresa, sicuramente, Maria Luisa, Adriano, insomma, ma qui ci vado due risati. Ciao Pietro, buonasera. Consentitemi un secondo, volevo una cosa, Adriano. Adriano. Un attimino, non c'è, ci sono stati macchine. Vabbè, dopo non glielo dico, non volevo dire una cosa della radio. A vedere cosa ne pensava anche lui. Va bene. Avanti, Franco, mandi la voce. Mi sono anche collezzato. E mi sono stato poco fa. Tutta mattinata ho dormito, tranquillo. Ho fatto un'estesia, mi sono svegliato adesso poco fa. Ti stavo dicendo, avevo la radio, comunque in ogni caso, il problema sta arrivando. Infatti volevo sentire anche Adriano, da quando gli ho cambiato praticamente l'alimentazione. L'ho messo sotto alimentazione diretta col switching, il suo cavetto, tutto, ce l'ho tolto dalle altre radio che praticamente sta lavorando a parte, non l'ho più fatto. Anche stamattina l'ho acceso, dopo pranzo, perfetto, non l'ho fatto. Adesso vediamo domani, perché lo tengo tutto in questo controllo, sto parlando con quello, microfono normale, sto parlando con quello lì. E va molto bene anche la modulazione. 9.30, radio 5, ultima, pulita e tranquilla. E comunque secondo me era un problema di alimentazione, problema di mancanza di alimentazione, e ti ha fatto quel problema di tutto vivo, sì. Va bene, adesso la racconto io una bella barzelletta. Questa qua va dal padre a mare, e mi fa il padre, ma qua l'acqua è trulla, figlio mio, se trulla lì e trulla là. Non era così, era un po' più lunga la parte, non me la ricordo, ma non era così. Eh ti ho dimenticato il pezzo che il figlio le ha chiesto al padre se poteva fare il bagno, capito? Le ha chiesto, mamma, posso fare il bagno qui? No, figlio mio, che l'acqua lì è trulla, ma se è trulla lì è trulla là. Ma non è stato, mi ha riscato. Non mi dà che l'ha lasciato un franco. Ma ti ha dato pure, mi sta subito. Mi sta subito. E come quello di Sosa, le ha chiesto al figlio lo stesso. Babbo, me lo dai un pippione d'uva? Non si dice, figlio mio, pippione, se fai da bravo, babbo, te la budrone. Questo è un molto piccolo da parte di lei. A me non me la ricordavo un sacco, non me la metto una, allucinante. Mi queste le due del cellulare, tu. Anni le sai, barzellette, già anni. Sì, la conosco da poco fa. Quella del negro del ventaglio, raccontateli, dai. Sì, a quella lì l'ho raccontata. Quella è bellina. Ma non è rientrato, Adriano? No, sta leggendo un libro di Barzellette. Ah, lui c'è il libro, maledetto. Adriano, ma ascoltano mi sta? Sì, mi sta ascoltando. Aspetta, Adriano, quella radio l'ho messa sotto alimentazione perché tu mi hai posto il dubbio della bassa alimentazione. Allora gli ho messo un alimentatore a parte, da 30 ampere della switching, e sta lavorando da solo con quell'alimentatore. Da quando gli ho dato l'alimentazione diretta da solo non ha più fatto quel difetto. Dici che poteva essere anche quello? O è solo una coincidenza? Sì, va bene, farò andare. Grazie verde. La batteria ha una cosa. Se tu hai giusto così, lascialo così, non so fare niente. Se funziona, lascialo andare. Sicuramente anche quello torna, non basta lo stato. Non cambierà di contatto magari. Non usare su tricchi, io dico, è così. Se va tu lo dici, quindi è un problema. Non ti impallagare, non trovare difficile magari nel giusto, così. Si conferma, grazie mille. Sì, sto parlando con quello lì, microfono normale. Sì, infatti l'alimentazione all'altra era molto bassa, questa è quasi 14, 13,8, è regolata così. E poi l'alimentazione è nuovo, quindi. Va bene. Avanti Franco, ma a te, chi c'è ancora? Franco ci ha parlato, Maria Luisa, tu ci sei? Non c'è Maria Luisa, è andata a cenare. Per Franco, che prendi? Indietro. Non è racconto una così veloce. però c'è abbastanza ascoltabile, posso? Vai! Ok. Ah, un topolino. Sono catturato in una sorta, un topo. Praticamente a pezzi, sudato, spiaccicato, eccetera. Maledetta, uno dei più vicini, sono tantissimi, ce la faccio più di cegli altri topolini. Gli altri topolini mi chiedono, è tutta una notte successo, sai cosa è successo? E lui dice, ho andato a vedere una giraffa. Il topolino aveva trovato una cercata, aveva trovato una giraffa, non si è accontentato. E lui dice, sì, ma quella cosa mi diceva, ma che le bocche le cambi pure, ma che le bocche le cambi pure, non so. Lo faccio e poi te lo riporto giù alle tre, te lo passo io. Ehi, la verità Radio Black a Zano, non ho problema, è un cribulo. Un fumino. E falla a lei ieri, non è che sono farla aspettare. Problem, no problem, ok. No, non vuoi morte lì. Madonna Santa, che cosa si sta mangiando? Sta mattendo questi uomini, stanno lì. E tanto non ti piace di quella rete. Ma è stato una cucciola del stomaco, ok, poi con questi papaccini e si rotto, secondo me sei una cosa incredibile. Ci picchia, di che grossini stai mangiando stamane, insomma? Poi invece non hanno fatto niente, ingordo. Ha fatto il lungo quasi, o ti chiamano l'umanità, hai visto? E poi c'era un ammastico, ma che? Ah, poi io ho mangiato un olivo e poi, ora voglio olivo, eh. Confettate, buone veramente. Buono, sì, vanno bene. Già, ti ho trovato le vitti, eh. Quelle che vanno bene metti, nere. Ehi, per come piace lui, già ce l'ho, anche se è cromato lo fa lunga. E questo è cromato, è nuovo nuovo, però, lo ragai giù. E questo qui è grave, è nuovo, non so se perché l'ho arrivato con un affarizio, poi non l'ho mai messo. E come ti stavo dicendo, e vabbè, così avrò un po' di microfono. Un'altra cosa, quello che ascolterà, qui te l'ha visto. Non ci sono problemi, le cose me lo mettono, non ci sono problemi. Adesso domani mattina avevo preso una staffa, già mi manca, eh. Una di quelle staffiarelle bianca, perché ce le ho tutte, però sono marroni, bisogna scendere da coso, me la brico e li ritagliamo, per ci caffè ci facciamo un giretto, la prendo. Devo furare e mettere questa roba, se no. Qua non si canta messa. Oh, cra. E tre. Ma sai cosa ne è successo di a Franco a ora di pranzo? Eh? Noi eravamo tutti a tavola, aveva il bicchiere del vino vicino, no? Non aveva il cellulare. Ha preso il cellulare, c'era mio cognato vicino, Mimmo, no? Seduti vicino. Aveva il cellulare in mano così, tra le due dita, e nelle cade proprio in mezzo al bicchiere, dritto dritto. Ma era forse la cosa? No, non funziona, a certi momenti va, a certi momenti niente. Ce l'ha rotto, si è rotto, va in tilti. E lui mi aveva detto, poi asciugalo col fuoco, perché dice bisogna asciugare col fuoco, così boh, poi non so. E lui, ma cosa, altrimenti funzionava. Poco fa, andavamo a rispondere, che mio cognato gli ha fatto una sfida, lui andavamo a rispondere, però no, non fa. Ma dalla a me trovo questa forza, ma c'è nucchia. Sì, io quello di Gigi. Quello? Dove va Gigi? Ma uno li voleva subito, praticamente doveva tenere le cove. E ha aperto subito, pulito di funzionava. Ma cos'è che non funziona? Il microfono? No, vai a rispondere alla chiamata e non schiaccia i tasti. E perché non fa contatto? Ma l'ha aperto. Bisogna buscare il cacciavite che ha il telefono, bisogna aprirlo e asciugarlo. Però se lo tira ancora così, si uscita, tu li viene un po'. Ecco, è così. C'era il vino, cotto, mi, dove c'è la batteria, a metà d'acqua, a garra da di vino era. C'è un odore. Vale a Brenni, mi avvi di me. Ma sai che lo devi fare? C'è bisogno, anche io ne ho salvato un bel cellulare, ma un bel parone. Io non sentivo auricolare, ha detto uno che non sentiva auricolare, è caduto in acqua. E ci stava già uccidendo, l'ha aperto, gli ho pulito con la gomma, gli ho cambiato l'auricolare e vedi ancora funzionando. Cosa, non ci vuole niente di stare, non che ne ho aiutato un bel stesso. Oppure non sentiva, lo puntava il microfono, ma era caduto in acqua. Cose qua. Perché se non fai in tempo ad aprirlo si uscirà e se lo devi buttare, ci manca i contatti, capito? E lo so, e mio era un Panasonic, che non è un occhio. Ma non è un ecco già più. Io ho aperto un Samsung che praticamente funzionava solo il display che c'ha esterno. però quello dell'interno non funzionava, poi è stato Civadello, poi è stato Civadello, su questo strano. Ma poi soccorsi, no, mi giù, stavo parlando al telefono, l'ho chiuso, sono stato a riaprire, non si vedeva più su questo strano. Loro hanno smontato, l'ho fatto a piedi, siccome il tanking c'ha un filo che è doppio, e praticamente c'è quello dell'esterno, del display e quello dell'interno. E poi fa cazzo, io busco un altro fanco e gli cambiamo il display, lo spostavo per aggiustare. E via. Ma lui sta sempre a pecchiuri, a pecchiuri, a pecchiuri, a pecchiuri, a pecchiuri, poi alla fine si spacca questo giuri. E non c'è, quello che l'ha inventato non è scemo, no? Si spacca, sta a pecchiuri, a pecchiuri, ma devi scruzzare, ma devi scruzzare, ma devi uscire. E poi alla fine ce lo... si è spaccato, e così anche uno del Motorola, se non si Motorola ci sta su io, uia, guarda, se ne ho tre o quattro affitti a casa. Comunque non ci sta con me, da poco ha aggiustato un, ha aggiustato Dio, ho cambiato un pezzo, ho un Motorola stesso, mi dia lui, io sento, però quando parlo non mi sento, che sono 5 minuti ci ho messo, vengo a casa, mi vediamo già la via. Sono andato a casa, ho smosso, mi cambio il petto, guarda se funziona adesso. Era un bombone, era il microfono rotto c'era. Ma già. Non so. Comunque già ne ho rifatto il cellulare. Abbastanza, Tipo quello di Maria Luisa che lo andava. Stefano non mi ha detto, come c'era stai, però non funzi bene. Io avevo già chiamato cosa era, mi dava una cagata. Lo faceva a contatto e lo trovava il display. E tu mi fai delle soldature qua, metti un borso, un colla, attacchi il display, e poi stai ancora andando. Cosa ti ho detto? Non ho capito, sento molto basso il radio. Cavolo di telefonini, tipo i tre, per carità, tre non serve a niente. Dopo di un po' la fermata ti va a testa in giù. Mia Carletto gli ha capito di successo. E infatti ce l'ha bloccata adesso. Non serve a niente quei tre, tutto niente. Lui col telefono buono, secondo me, vabbè, la lucchia, quelli della lucchia sono buoni, secondo me. Poi i panacciuri, ma non assai, ma no. I lucchia secondo me sono i migliori. Sia di durata che sono molto resistenti come telefonini. C'è le caterpillar di Lucchia, che vanno poco bene. No, sono bravo. Ne avevo tre cellulari, uno lo aveva a mamma, che siamo in fase. Oddio, quattro Lucchia, 3 3310 e un 3330. Che un... Però non funzionava, non funziona il coso, la vibrazione, perché gli hanno staccato le lucette della tastiera, non so, forse non fa contatto. Poi uno l'ho regalata a Robertina e due ne ho ancora qua. E quindi praticamente non funzionavano, li ho smontati, ho trovato il danno, adesso funzionano tutti. Adesso bisogna vedere com'è. No, ma quello di Franco sicuramente come si è bagnato, capito? Bastava asciugarlo subito e l'avrebbe recuperato. Ma è bravo Antonio, tra queste cose c'ha un sistema, non so, li mette dentro, li lava, blu. Guarda, Claudio, se tu un telefono ti cade in acqua, lo apri subito e lo recuperi. Se lo lasci un giorno, fa un po' di danno. Infatti quello di Gianni... Il danno maggiore l'aveva fatto perché l'avevi lasciato già, no? No, è quello lì, quello che ha fatto che il danno maggiore è quello che mi ha buttato nel coso della vaschetta dove c'è il detersivo per i piatti. È il detersivo che l'ha corroso colui. Allora, quello non c'è stato nulla da fare. E invece quello che ha buttato nell'acquario, quello lì che sarebbe il mio. Lui l'ha aggiustato a teoria, l'ha subito smontato, ha messo la matrice e la centrifuga laser e l'ha centrifugato, l'ha asciugato bene. Ma non c'è bisogno, cioè lo apri subito, vedi, lo asciughi, se fate i contatti. Se non li asciughi cicca, se non si dà buonanotte, no, poi mano a mano se lo mangia. E mai così, bisogna aprirli subito, se no, se non li apri buonanotte, non è che. No, anche un giorno lo fa più, perché va a finire dentro, poi sono delle grasse, no? Quelli deve aprire, asciugare. E non è, quando cade nell'acqua non è facile, Comunque ne ho recuperato un bel di cellulare. Forse non sono riuscito a aggiustarli perché li portavano dopo due giorni, dopo tre giorni, dopo una settimana, e poi alla fine hanno chiusi da. C'è lavatrice alla Grubo Coccolino. Che fattura? Il gioco di Coccolino, una bella centrifuga e poi l'ho risalto fu e ce l'ho buttato dentro il forno. Poi vamo a cuociare donna. Questo che vuoi, ma se là che stanotte invece funziona, che non fa la vibrazione. Che vedo, se ti va a radio. Ah, è colliccio. Beh, Magnuccia, come stai? Bene, buonasera. Sei, non sei Magnuccia tu? Mi sembravi Magnuccia, Pomponia. Come stai? Bene, dopo il tanto ti fai sentire ogni tanto, dai. Ah, Pinuccia sì. Ah, allora ti ho cambiato per Magnuccia io. Ma guarda un po', che strana coincidenza. Ora ti metti sopra la sedia e ti lascio da sola. Da sole? Ma Maralisa non c'è. Maralisa. Marella. Tutti dormiti sopra. L'ho chiamato anch'io poco fa e non risponde. Evidentemente è già in coma. Ti sei addormentato il sonno, dai. Allora, Manuela, riprendi, ma cosa sta leggendo Adriano? Mamma mia, sempre leggendi. E lui mi ha detto a me che sto smontando questo telefono, dai. Che roba? Il capo a capo, non stai riparando, come mai? Ce l'ho qua più. Ho capito. No. Ma così una cosa, ma là non ci sei più. Il tuo cotia a capo isolato, la zona lì, non sa che più. Elia, a dove sei? Al corso? Compreso, andar bene a mezzo, dai. E continuate che apro questo telefono, vedo un po' se riesco a recuperarlo, se no lo butto nella mondezza e non se ne parla più. Ok, riprendi Claudio, dai, fai girare tu, un attimo di stand by per me. Poi devo buttare qua, se non ce la fa lo dai a me domani. C'è la giusta Lucca, Robone lo torno a microonde. Non ti preoccupare, domani questo sta funzionando. È già aperto, cioè asciugo bene, gli do qualcosa per i contatti, lo pulisco e lo richiudo, no? C'è un qua. No, devi aprire quelle, cioè delle grasse, devi aprire, asciugare bene lì, e poi devi fare la gomma nei contatti, se no poteva andare ovunque. Gomma quella di scuola, no? A fa. Poi se non ce la fa, lo dai a me, tanto il mio alimentatore scalda subito, è 130.026.74, 3.400 mA. Lo mettiamo su, come asciugato lo torno. Poi la base del benzillo, gli antirrughe. Vedo, la base del benzillo, gli antirrughe ne vediamo qua, oppure a bagno di luente, strumacchini di Luca. Ognuno dice la sua. Ehi, Thomas. Chi è Thomas? Crisia. Sì? Ma a salvo, perché dovevo andare a vedere, poi lasciamo andarsi e sono rimasto a salvo, se no sarei stato anche lì. Ah no, pensavo di fare il nostro appuntamento per due giornate insieme, boh. Ma io voglio dire Campari, non so che punto arrivi. E con Campani. Perché Campani ci scende come l'acqua, ma poi inizia, so via, iniziano i gradi, eh. E lo so, non è la prima volta. Io il numero è interi me li invento. E arrivato lei. Gianni, beh, non lo so, poi che stiamo facendo il Blanfuso, è ciao lui. Non me lo ricordo quando l'avesse, boh, l'ho sentito, però non mi ricordo. A Gianni Benvolue, no, il collega di Franco. Mi chiude, per carità. E attorno a Gian Filippi quei tempi. No, io mi scatena un po' d'estate, mi conduciamo la notte con Gianni a Bocena, lui Gianni, eravamo sempre 4-5, andavamo lì al quadrato e ci facevamo così un paio d'ore parlando e qualcosa diciamo la ciuccio, ma adesso non mi ricordo, non mi guardi, anche perché io già bevi, per carità, non mi tiro mai indietro io. Qua c'è un break Gian, qual è entrare? Un break? Avanti. Ma tu qui Gian, break come ti va dietro? Mi è sembrato Cristian da poco fa, ma io faccio avanti Cristian, ma se non riprende Cristian. Io che Breccani, però non parlo. Ho lanciato anche Emanuele, evidentemente è impegnato. Emanuele, vuoi riprendere? È impegnato. Vabbè, riprendi Pierfranco. Problemi, mi devi far vedere il diploma esattamente perché devo vedere se è perito elettrotecnico o radiotecnico, adesso non mi ricordo, ups. Non mi ricordo, avrò ragione, ma se c'è una legge, c'è una formula, ma non mi ricordo qual è adesso. Voti non ne avevo da scuola, però ci andavo, seguivo, facevo, quindi signora di Massima Randattola. Gianni, Gianni gli ha dormito, un colpo di sonno. Forse ha ragione, sa. Ma non è una chiesa per la portata, se non si sentiva lui sul raggio. Stasi alla microfono normale. Antone, alza la voce. Ah? Allora devi pagare 2 watt in più a quella radio, dico 2 watt. Più giorni? Ah, adesso fra un po' più giorni ciao, senti bene, dai. Un paio di giorni, ha del tempo, vedrai lo senti bene dopo. Da lì già spacca il telefono a tutti, Insomma, una posizione buona anche lui. Lui è praticamente a testa di svecchio. Non è che la torre contro i carbonati, Lillo. Lo già spacca, ma lo già spacca. Carbonati, e bu. Erano veramente bello, eravamo vicini, ma andavamo tranquillamente d'accordo. Parlavamo se pronto sul canale, quando dovevamo avevamo un po' quella brutta, lo facevamo, però siamo stati sì, ormai obbligato a trovarlo per la radio, mai. Invece c'era qualcuno in linea, mi stai tratterando, non me lo già voi, dove abiti, alla Teroce, non c'era persona io, a Carbonati, cosa sto tratterando, io manco intendivo, io non sentivo nessuno. Sentivo il bip giusto di Antonello, ma quando io ero sul 20 lui era sul 14, poi sentivo il bip. Se no non apprendevo i splatteri. E tutti i trasiani mi stai splatterando, mi stai facendo, ma andai ammazzati. In diretta, guarda, io in diretta parlavo con Villa Cidro, praticamente in mezzo alla provincia di Cagliari, in diretta. In preparazione ho sempre avuto un po' di tutto, adesso non ci faccio più caso perché per me parlare con l'estero è come parlare con G27. E che fa? Vedrai, è un mondo diverso, cioè non ha niente a che fare con la banda cittadina, capito? Basta una piccola antenna fatta di filo, come ti dicevo stamattina, una volta c'era partente, poi te ne accorgerai. Grazie, si sente tutta l'Italia, non ci sono problemi. Italia, anche all'estero, dipende dalle giornate di propagazione, se è corta, lunga, dipende. Però se c'è radio sotto è potenza, vamos. Perché no? Anche l'altro giorno, Don Gianni, c'era uno della Turchia su Canale 10. Decifrerai, non ti preoccupare, piano piano. Arriva anche il tuo turno, come è arrivato il mio e quello di tanti altri. Franco, tutto il bombolotto dice Magnello. Di Franco, non lo conosco bene. Quello di nuovo in cucina Magnello di Merendini, Buzzinuccio di Vecchia. È una spugna, un pozzo senza fondo, è sempre massicendi, certo. Io se dovessi mangiare quello che mangia Franco diventerei di nuovo 100 kg. Assimilo tutto, maledizione, ma non c'è niente da fare. Infatti mi sto limitando, mi vedi? Ogni tanto mi scateno, ma non posso farlo perché assimilo tutto. Se mi metto io a bere in giro una settimana ingrasso 5 kg. 5 kg, tranquillo e sereno. È puzzinoso, il bere è una cosa micidiale per me, però non è che mi posso ammazzare. Sicuramente Franco, mamma mia, vai dimmi. Gianni! Tu Maria Gara, chiama Iatto Cera, riprendilo. Non c'è Maria Luisa. Quattro volte la chiamata, non c'è neanche Emanuela più. Adriano, devono essere lontanati alla radio. Ma dove? Dove ti chiamo? Mi rispondi. Ma già, stai tornando a fare in su. Senti compreso Maria Luisa. Sei drummita, sei già bizzata, non ho capito quello che stai dicendo, sto con Matte in radio. Ecco, ho capito. Andava, va bene. non ti rispondi più, anche tu ritieni salutata. K, Franco. Poi c'è anche Antonello, ce ne dimentichiamo Antonello, ma ho una chiamata antenna. Sicuramente non te lo dimentichiamo più. Aspetta un attimo, vediamo un po', Franco, chi sei? Cappa, là, come sta portando il telefono, asciugato, di luce, ecco che porto l'orario. Sto qua, aspetta, sto cappa. 10. Sono esattamente 10 e 20, no? 10 e 20, vediamo un po'. Sentivo a posto, là. E prima seguente, per la rete è Luca. Sì, basta, anche fatto così. E faccio tutto ma niente, cazzo. Sempre una scusa, una volta che sono masticati in gomma, sempre, io non so niente, cazzo. Lascia un qua, se no faccio il bicchio. Io mi piace, grazie. Ah, no, guarda, non me ne parlare più di questi bomboluti perché faccio il tuffo di mangiare queste cose qua, guarda. Adesso niente e basta. Adesso è portato una settimana senza mangiare. Di barrini, vai veramente, una settimana senza mangiare. Domani sera tramezzini, domani le frittelle, le tramezzini domani per cominciare la dieta e poi domani si vedrà come proseguire la settimana, tutto qua. Fra, ha detto Anna che la dieta non si usa, non si inizia con i tramezzini ma con l'insalata. Sì, non è la stessa cosa, ha ragione. Dudu, ma la sera ti mangi l'insalata e io mi mangio il frigore, bene va. E da lì mi è un attimo con pupace. Ogni mangiato il ristorante che la fa carizzai. Quindi domani sera ti mangi le frittelle, bravo, sì, vabbè. Non ti sono problemi, io già me le compro, va. No, io frittelle non le mangio, non mi piacciono a me. A me gli ho detto, mi fai tramezzini e basta, tutto lì. E poi succhi di frutta all'anana. Devo anche riportare che sono molto deboli. Ottene. Sarà lo 30 che c'è a gamma, non va così. Ma io poverino mi tocca a toccare, guarda, sempre lavorando, guarda. Passandomi le 8 la mattina alla sera e poi guarda la mitrata. Oh, ma l'avvicinamento a cui ce l'hai a Rubi? È un cane molto strano, buono. Cioè, le persone, ma tipo, mi ha visto già da un po' di tempo. Però, quando c'è la Teresa vicino si mette a bagliare, buono. Sembra che tutto che la Teresa si mette a bagliare, no, Franco? Ah, mi ringhi a me, se in terra viene, sta vicino, lo chiamo, si avvicina tutto. Però se in braccio a Teresa ti ringhia. E a Carletto, quando mi hanno detto loro, dice che ci va d'accordo. Forse a me mi ha visto poche volte ancora, non lo so. Però l'altra volta mi ha ringhiato e allora mi sono allontanato e ho detto, no, tu non sei amico mio. Lo sento, alza la voce, non ti sento più di nuovo, mamma mia, gara. Non ho capito neanch'io, sei un po' pazzo in radio, ha ragione Claudio. Pendolo, pentolo, pentolo, che c'è? Ah, tu ti presenti a pentolo, è il pastore tedesco. Pentolo, ma pentolo di cos'è? Ah, io non so, pentolo di mondo a casa. Cosa non può? I pastori tedeschi sono i migliori come cani, migliori di ne fare questi cani. Sono troppo belli come cani, troppo belli. A parte che sono cani troppo, sì, che sono affettuosi come cani. Ne avevo mio zio che era, guarda, fuori in testa. Diceva, chiude la porta, guardate, ma come si, non si leva il passante, il zio, però chiudeva la porta, diceva, prendi per dire, sta facendo della pulizia a casa della porta, no? E stava cambiando il capo dell'antenna. E è arrivato una persona e mi diceva, no, tutto, aveva piegato, aveva messo questo articolante. No, tu prendi uno lì e io buttavo la moneta, ma quando c'è la cazzo messo. Adesso il mio, praticamente, lo mando a scuola domani, perché adesso le studie sono già è già finita praticamente, vuole andare a scuola. Quindi a domani libri, cartelle a scuola, al sacro cuore lo mando via, così disegnano meglio. A poi mi sembra che lo capo a Bubuglioni, come su bippi, bippi, bippi. Non togliere questo bippi, bippi, bippi, bippi. Ehi, dimmi. Posizione sicuramente, è lì in pianeggia, è sicuramente, perché anni fa avevano stato un po' di gente lì, un po' di gente, ma se no avevo fatto la telecamera, più di uno ne hanno preso, ma sinceramente non so, vabbè anche qua al Monte ogni tanto già si bloccano 3-4 pattuglie, quelli della, come si chiamano? Quelli che hanno la Subaru, la Sicilia, che bravo, 4 pattuglie, casino, è un casino, quello le piazze soprattutto. E vabbè, purtroppo non sai come sono state fatti. E va bene, è come la delinquenza, si lucchi qua. E loro devono intervenire quando li chiamano, oppure per guardare un po' la zona com'è. E vabbè. Comunque qua al monte stanno girando parecchio, Sì. Sì, vicino. Puglia, ma ormai si è calmato, ormai, già sembra tranquillo, e comunque gli ho andato a casa lì a, come si chiama, a Bancali, e vabbè, lui la ragazza, e vabbè, tramite gli assistenti sociali gli hanno dato la casa dal comune, boh, su Rosa, lui mi stava dicendo. E vabbè, io se ne va a Roma, se ne spente, pensa, tutti i figli. Ma se usavo un tipo del genere. Poi vabbè, non l'ha rotta lui, l'ha rotta lì. E lì era la padrona della macchina anche. Dove dice da lì? Vabbè, non l'ha fatta a me, se no che mi avrebbe pagata. Ha dato un culo di un mandata, scusa il termine. Lì ha passato la testa, ma di brutto pure, di brutto, guarda, non è per vantarmi, non ho passato la testa veramente, perché ho avuto delle parole, è una tipa che praticamente parla, infatti io glielo ho detto, io non la stavo più salutando, no, ma lì di brutto è davanti, ma non mi saluti, cosa ti ho fatto, guarda, io ti saluto, non ho problemi, no? Non mi consente di salutarti. Però devo dire questo, che se un giorno scopro che qualcuno viene a dirmi che tu mi stai parlando male alle spalle, vedi cosa succede a te, ma non me la faccio da dubbi sul duio, di no, ma io non ho supporto della persona, non ti preoccupare. Ma è stato così che una persona me l'ha detto, mi stai parlando male alle spalle. Vabbè, già li passa. Com'è, no? Cinco la prendo io, da pure perché ho vestito. Quindi l'unica cosa che posso fare è il cane. Se ti usano il cane, ma il cane ti mangia, Devo stare su. Vabbè, sa che era più, diciamo, più cattiva. Si chiamava mortarella cigana, perché il cane, poi come fanno a tenere due cani? Come facciamo a tenere due cani con gigante in casa? Io non so. Che come si chiama? Del salone della macchina ti pagasse il cane, ma che è matta? praticamente perché è successo così, e Costanzo gli ha buttato questo di fuori dalla scala, come ha fatto il cane? E c'è la manetta, realmente stava passando la macchina e c'è praticamente la colpa del cane, non è della macchina. Ma perché non si è fatto niente? Cazzo, non gli ha spaccato il faro dalla macchina. Non era un bestia vecchiano, ma era cattivo vecchiano, era cattivo. Ma meglio sia lui, se ne sia andato, andata anzi. Ma comunque io rispetto a tenere la canna di in casa, era proprio come fa pure una casa piccola. Ma contenti loro. Cappa, vediamo un po', chi è rimasto? Claudio. Sono qua, è il cane che c'ho. È un intruso, vabbè, il cane che è morto che va prima era un Massimo Napoletano. Poi l'ha fatta saltare, non so, con un dog argentino mi sembra. E tu su cane, guarda, io vedo sto cane, ci fa un cavallo sembra. Mamma mia. Già Massimo Napoletano è un cane molto aggressivo. È bravo, però se te la usano è tu la voce. No, comunque il figlio Bull, mamma mia, è Maru, è cattivo, ma sei cattivo che ha ucciso qua, lui già sta figlio, sto facendo entrare per la scuola, mi ha tirato lui va via, neanche uno ne scappava, tu li ha ucciso. Ciao, perché un cane che non può vedere molto gatti, sicuramente. Io bisogna essere molto attenti con il cane, maledizione. Io in una campagna una volta sono andato a fare sparaggio, ma ci sono accorto e c'era il gregge delle pecore. Ce n'è pisato, ho fatto le mani in mano, mi è barriato una bigola, mi si è avventato, mi si è punti nel braccio e mi hanno messo. Ma guarda, bisogna stare sì. Guarda, mi fatto vedere la pietra, perché questo cane nero è cattivo, ma cattivo. Guarda, è un cane, io cane così, ma è visto, fatto un bicchietto insieme. Quando lui scendeva dietro un cane, dall'altra parte, perché i due sono stati qui. No, al visto dovevo mettere lì la museruola e il guinzaglio. Poi ci portava con un disciotto. Hanno lì niente, gli andava là e pure assenti. Sì, una volta dice che si è fatto le scale, tutto in una volta. Ma non è per lì. Quella del televisore ma ce n'è andato mai giù per controllare. Ah, il carri mai fa 80 anni mi sa, vediamo che sia. Siamo solo 80, ancora l'85, ci sto proprio sbagliato. Vuoi attaccare a me? No, che le dia, facciamo che è una ragazza quarantenne. Ormai vabbè, tanto in questo periodo, blu. Ma bisogna coltivarle, innaffiarle, se no poi è sicuro che sul capo. Franco, ma si occhi sempre mangiendi. Un manenuto? No, no, un manenuto non è più venuto, ma l'ho preso poco qua, guarda, l'ho preso poco qua. Allora, a me ti puoi rubare in giarete invece che c'è la donna che è più vicino. Allora torna che si sente lì nel salone, ti sente mentre parli che stai masticando. Secondo me tu ti hai mangiato tutto. No, guarda, c'era una merendina, non ma lì, ma è basta. Perché adesso la merendina, ce l'ha cuccati lì, la signora qua. Ecco, mi ha detto del per il culo, è riuscito praticamente, è riuscito a farlo questa moto, no, perché aveva operato l'intestino e a forza di un pezzo di intestino, tutto lì. Tu chi ci viesse, o chi ci venendo non si ringotti l'ammo però, mara, ciucci, tere, ma mica fa schifo, sta sempre masticando. Quello è buono, sì. Cos'è questa cosa per lei? caro delle erbe. Vabbè, a Gianluca avevano fatto assaggiare, però. Quando mi sei tu, l'altro giorno, no, non ce l'avevo, l'ho preso da poco, l'ho fatto assaggiare a Claudio. Sarebbe lo stamano delle erbe, o cioè un liquore. Un liquore, amaro delle erbe. Com'è Claudio? Vediamo un po', sentiamo, com'è buono. Buono, buono, è un amaro che ci beve dopo cena. Dopo che hai traforato un po' di cose, ti metti a posto lo stomaco. Che tipo di amaro mi dice Giuliani? È un amaro fatto dalle erbe, ma molto gustoso, buono, non è neanche forte, quindi si può bere. Qua buono. Allora, prima di... ma già qua, allora lo assaggiamo. C'è un bello gusto senza mangiare, non è che sia buono. No, tu... già ti fai fare un bel bacio di tramezzini prima, no? Ti mangi i tramezzini, ma un po' lo ti vuoi l'amaro, l'amaro delle erbe, ti sistema subito. Ah, un bombolotti, cos'altro? Bombolotti? Che bombolotti, cos'altro? Penso ai bombolotti, sono quei cioccolati tondi, che dentro sono ripieni di crema. Ah, non mosso l'uno, dice, vedi quanto sono buoni. Tondi, ma... che crema. Fai sì. Quegli ovetti Kinder, non hai mai mangiato, ma... ma è solo una confezione delle uova, quelle lì sono. Sì, dentro le buste c'ho, per essere compra buste, ma sono così buone, mai le mangiate dei bombolotti, come si chiamano, quelli a fare i così, quelli che prendevi e ti usciva la sorpresa, ne vincevi uno, ne vincevi due, i boero, lì si sono me. Ma la, non sapevo già io. Però che non si chiamano boero, perché sono bombolotti ripieni di crema, ma uia uia. Sì, uno. Ah, non ce la fai, Se ne mangi uno, ti attirano e continui a mangiare, manco te la bici. Sono occupato un sacco da 50 kg, Teresa. A chi li prende? A me non me li ha mai offerto. Molella. Ah, buona o molella mai lì? Domani ne faccio le ciambelle di patate a Franco. Oh, mamma mia. Oh, fra, trovare un patato di rete, tu. Come fai, chiamati il patato? No, non ne va niente, fa dopo. Mica, la mamma. Mamma. Infatti, ne va, dici, guarda, non la cuccia di donna, bravo. Come fai, chiamati il patato, non ti compri. Le ciambelle di patate, le ciambelle, i fatti fritti, mai le hai mangiati? Ah, caffa, sì. No, ma i patate non fa caridare. Magari dai, se tu li assaggi, dirai, e qui ci sono le patate in mezzo. Le ha fatte a questa, Maria Luisa mi sembra, non mi ricordo bene. Le ha fatte di patate però, e solo non li voglio, non le ho mangiate. Io per testo sai cosa c'è il testo, sì, ma la mia di scuola, faccio anch'io. Se sai cosa c'è, non si sente neanche che le passate. E la mia lo faccio io di pompo. Ti piace nella birra? Vero? Allora mi sei preso di un cinghiale. Franco ne ha mangiato due buchi. Non fate ravioli, l'agnello, i gamberi, l'insalata. Ma siete tutti abbuffati. A proposito, com'è andato l'agnello a te? Bene, un bombon, Mimmo mi ha detto buono, complimenti Teresa, buonissimo veramente. Oh, ma le olive ce le hai messe dopo? Sì, dopo Da viene bene, lo stesso procedimento del pollo, non c'è da sbagliare. Tu compare già chi ci vuoi, mi zio, mi ha dato, e mi dici dove le hai presi. Non ti preoccupare, già le compro con le forbici, poi già avremo pagato cosa. E si conferma. Lo sto raccontando a me, ma a Patrizia oggi. E vai che ce n'è, Luca, è una cosa impressionante, Teresa, è impressionante. Non si può andare lì, non si può andare. Volevo se ne chiedo che grazie a tre chili. Vabbè. A meno che ne fai a meno, Claudio, non le mangi e figlia. Non so, ma che forte di te, non puoi dire no. Poi ne scrivo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. e poi la febbre va giù su che diventi un boia. No, ma poi c'è di tutto, no, non c'è niente da fare. Qualsiasi cosa, è quello, è quell'altro, assaggia a questo, assaggia a quest'altro. Boom, tocca pegliarti la gitrosolina da voi. No. Quando è la... tu andassi... faccio un mese scorso. Tu andassi a casa lì, a Teresa, no? Ah, se come ti ha fatto? Mi ha fatto uno, vabbè, mi ha giovagnato. E lui ha... c'è un eroffa. Dove vanno i dossi, lì, vanno i dossi. No, lui, se qua è il suo mio, no, Tere, mamma, se vada a tosse. Vabbè, un infarto, capito? l'occasione di assaggiarle, ma... pronto. Ecco, per me che mi fumo la sigaretta. Facciamo fare la Teresa. Ma perché no? Buoni. queste cose lì, vedi, sono cose che non mangi tutti i giorni, capito? Io mi metto a cucinare, a fare pasticci in cucina, di pasta, di sughi, non mi fermo più nessuno. Ogni alito così specialmente. Io quel mese che va a casa è malattia, cucinavo io, facevo io, non c'erano problemi. Solo che a volte poi ti stufa che c'è buona faccia tra matrice cosa, cosa fai? Non è che tutti i giorni puoi andare al mercato, comprare quello, comprare quell'altro, allora ti metti a inventare e riesci sempre a tirarle fuori qualcosa. Luca, finito di fumare. No, non è ancora il tuo, no, non è ancora il tuo, non è ancora il tuo, non puoi dire che ti vuoi conoscere, non è ancora il tuo, non è ancora il tuo. Sono mandarini, questa cosa, non vuoi dire, sono la tua roba e la posso mangiare. Mandarini? Ora mangiamo mandarini, eh? Ma lo digerisci di notte, io no? Furo ferri, digerisco, io mangio tutto, per peperoni, tutto mangio, tutto mi fai mangio. Oh, ciao! Ehi, a te, peperoni, mamma mia, di notte non dimmi te. Non c'è la frutta che ho tolto oggi? Anche l'ananas, io da. Ma vedi l'ananas, la sai fare col cogio, col maraschino? No, vedi, quello no. Ma vedi, bisogna te la preparare, tu preparalo prima, io preparo la frutta. No, col maraschino no, l'ho tagliata oggi a feste, dopo al centro gli ho messo, ho preso un bacino rotondo, l'ho portata bella, rappresentabile, in tavola, e sono rimasti così, gli ho messo il coso che c'è, l'ho messo al centro, poi tutte le feste intorno girate. Positivo, buona, buona, io invece ne taglio il coso, dove c'è il praticamente la moscella, no? L'isio, la faccio in piano, poi le faccio il foro dentro, la foro col maraschino, oppure se è un periodo insomma che si può mangiare, le metti il gelato dentro, e poi la fai tutta fredda, e ti mangi il gelato con l'ananas, ma la morte sua è al maraschino, buonissima. No, così non l'ho mai fatta, non l'ho neanche assaggiata perlomeno così. No, io l'ho tagliata e l'hanno mangiata, ma ne hanno mangiato due o tre fette perché talmente erano piene, non sai dolci che c'erano già a tavola, tantissimi, e tra biscotti, papatine così, papatine di tutta una cosa, e me ne è rimasta un bel. Quello fuori che mi c'è in frigo non te l'hai mangiato. Cosa? Quello fuori che mi c'è in frigo non te l'hai mangiato. Stasera quello lì, l'hanno mangiato stasera a merenda, era ancora un po' duretto, infatti Patrizia ha detto che era buonissimo, mi ha detto che buono c'era, e ce l'abbiamo mangiato nel 4 stasera, io, Mimmo, Franco e Patrizia. Quello vuole tolto un po' prima, sennò diventa, rimane duro, e quindi, però c'hanno buoni gusti, roba buona. Allora Pietra, cosa ti stai facendo? Le seghe mentali? Quello che faccio io, vero Cla? Che ti ho dato io? Ehi, ehi, ehi, l'ho già assaggiato, Pietra, non mi sei venuta, è troppo buono.